più, più, non ci siete più, più, più, più, più, più, più, più, più, non ci siete più. L'avete preso in... Non ci siete più. L'avete preso in cu... Lo Zodi 105, One Station, Adavadation, che traditation.